piano. Di Enrico Ruggeri. Oggi affrontiamo un personaggio famosissimo e molto interessante, ed è molto interessante anche la sua storia, perché ci sono tutti gli elementi che possiamo immaginare all'interno dello star system hollywoodiano, con le glorie, le miserie, con gli scandali, i misteri, tutto quello che si nasconde spesso, insomma, dietro alle immagini sorridenti, alle foto sulle passerelle, ai premi ritirati, a tutto questo mondo scintillante che spesso è costruito anche ad arte da esperti di comunicazione. È una specie di cortina fumogena che lascia intravedere solo il successo, i tappeti rossi, gli smoking, e spesso dietro ci sono debolezze, le tragedie che, ahimè, vivono anche le star. Bene, oggi parliamo di una stella di prima grandezza di Hollywood, uno dei volti più famosi di sempre. Molti di noi, quelli che andavano già al cinema negli anni 70, l'hanno conosciuto soprattutto con il nome di un suo personaggio, il re di Brooklyn e delle discoteche, il mitico Tony Manero. Stefani, adesso che sai che io vengo a stare in città, io pensavo, volevo dire che forse ci potremmo vedere, non so. No, no, non dico così, lo so che cosa stai pensando. Sì, stai pensando che io ti voglio portare a letto, ma ti sbagli. Voglio dire da amici. Lo hai detto anche tu una volta, che potremmo aiutarci a vicenda. Vuoi essere mio amico? Sì, sì, io vorrei essere tuo amico. E ci riusciresti? Credi che ce la faresti? Che potresti sopportare di essere solo amico di una ragazza? Lo vuoi sapere? Sì? Non lo so. Non lo so, però ci posso provare. Di più non ti posso garantire. Ci posso provare. Eh sì, Tony Manero è interpretato dal nostro protagonista, John Travolta. John Travolta ha avuto una vita, una carriera che rappresentano uno di quei casi di stelle del cinema dalle tante vite professionali, protagonista da giovane di un successo planetario con film di quelli che hanno pesato sulla cultura popolare, perché dopo La febbre del sabato sera è arrivato Grease, e poi c'è stata una lunga parabola discendente con pellicole di scarsissimo risultato al botteghino, scelte sbagliate, ruoli rifiutati che si sono rivelati oro colato per altri attori, e invece ruoli accettati che sono stati dei boomerang, fino a un altro incontro, l'incontro con Quentin Tarantino, che gli ha regalato un'occasione, una nuova carriera, una nuova ascesa ai vertici del mondo dello show business, una carriera ricca di colpi d'ala, però dietro una vita piena di fatti controversi, di dolori terribili, di tentativi di nascondere la realtà, che a volte è scomoda, magari dietro a un comunicato stampa, tentativi di immagini, di darsi un'immagine di normalità. Insomma, John Travolta è un personaggio veramente interessante, con tante sfaccettature, con lati oscuri, a partire dalla sua appartenenza più che trentennale a una specie di religione molto controversa, la Chiesa di Scientology. Nel cognome Travolta c'è evidentemente odore d'Italia, le origini sono del ramo paterno, il nonno Salvatore era di Godrano in provincia di Palermo, e lui è stato il primo dei Travolta a sbarcare all'ombra della Statua della Libertà. John nasce a Englewood, nello stato del New Jersey, il 18 febbraio del 54. Le origini del padre, lo abbiamo detto, sono siciliane, quelle della madre, Helen Cecilia, sono irlandesi, insomma i due grandi ceppi che si sono riversati negli Stati Uniti all'inizio del secolo, e da lei John ha ereditato la vocazione artistica. Lei era un'attrice, una cantante, poi una professoressa di inglese, di arte drammatica. Il padre, Samuel, aveva avuto un passato da giocatore semiprofessionista di football, però adesso lavora per una ditta di pneumatici. I coniugi Travolta hanno altri 5 figli, li crescono da cattolici, direi integralisti, in un quartiere prevalentemente irlandese. I figli organizzano recite, intrattengono un pubblico composto da amici di famiglia, vicini di casa, e tra tutti John si segnala perché ha il talento maggiore, soprattutto nel ballo e nella recitazione. A 12 anni i genitori lo portano a lezione di tip tap da Fred Kelly, fratello del più famoso Gene Kelly, quello di Singing in the Rain, di Un americano a Parigi. Di lì la strada di John diventa quasi un destino già scritto, comincia a sperimentare le sue doti artistiche in alcuni piccoli musical e il talento è evidente. John è bravo, però la recitazione e il ballo non sono le sue uniche passioni. C'è un'altra passione che porterà avanti in parallelo per tutta la vita. John adora il volo aereo e si tratta davvero di un interesse precoce, l'ho raccontato lui stesso in un'intervista. È cominciata quando avevo 4-5 anni. La mia famiglia viveva in New Jersey e gli aerei che decollavano dall'aeroporto La Guardia a New York sorvolavano a casa nostra. Li sentivo arrivare. A volte potevo persino riconoscere la compagnia aerea dai disegni sulle fiancate. Da allora volare è diventata la mia ossessione. Lui è ancora un ragazzino quando partecipa a una piccola produzione locale, un musical, si chiama Who'll Save the Plowboy, e lui ha un numero di ballo che modifica, che aggiorna, si ispira ai cantanti della musica nera, poi lascia la scuola a 16 anni, vuole provare sul serio la carriera artistica e come nella miglior tradizione hollywoodiana fa decine di provini fino alle prime vere occasioni nei teatri off di Broadway, che sono stati una grande fucina di talenti. Prima c'è uno spettacolo che si chiama Rain, poi è scritturato per Bye Bye Birdie, poi il colpo d'ala. Nel 71 entra nella compagnia teatrale che sta girando l'America con un musical ambientato negli anni 50 che racconta le vicende di un gruppo di studenti di una high school a Rydell. John Travolta interpreta un ruolo minore, quello di Dude. Il musical in questione si chiama Grease. È l'inizio degli anni 70, John è forte di questa esperienza, fa il salto che ogni aspirante attore deve fare, si trasferisce a Los Angeles, è il suo trampolino, quello che lo proietterà verso la fama mondiale. Il falco e il gabbiano. Siamo nei primi anni 70, John Travolta sta cercando di sfondare nello show business, vuole fare il grande salto verso il cinema delle grandi produzioni, quello che si produce all'ombra della famosa Hollywood Sign, l'enorme scritta sul monte lì. E prima di trasferirsi a Los Angeles prova a farsi notare in alcuni telefilm dell'epoca, piccole parti che gli servono però per costruire il passo successivo, quello verso il grande schermo. Nel 75 il suo esordio al cinema in un horror, Il Maligno, l'anno dopo è nel film di Brian De Palma, Carrie, Lo sguardo di Satana, e anche i media cominciano a accorgersi di lui, arrivano le prime interviste televisive. Well, I'm from New Jersey, which is back east. A lot of singers. Beh, sono del New Jersey. E per sopravvivere a New York come attore devi imparare anche a cantare e a ballare. Hai fatto Grease da teatro? Sì, ero in Grease. Era una cosa anni 50, no? Sì, sì. Mi sono divertito un sacco a farlo. Quali altre cose hai fatto cantando? Beh, un po' di produzioni estive, musical estivi a Broadway. Ho fatto uno show a Broadway che si chiama Over Here ed è in stile anni 40. Qual è il tuo desiderio più grande, l'obiettivo che vorresti raggiungere? Beh, sto lavorando a un film ora, che si chiama Carrie. Cioè, lo stai scrivendo? No, no, no, lo sto facendo. Ah, una grande parte non lo sapevo, raccontami. Sono contento di farlo perché è la prima volta che posso recitare in una parte seria, drammatica, mentre ho sempre fatto commedie, ma mi piacerebbe inserirmi in questo ambito. And I think I'd like to get into that area a little bit. E come è quasi obbligatorio nella costruzione di una carriera per una nascente star del cinema, alle prime apparizioni importanti corrispondono anche i primi articoli scandalistici. John in quel periodo ha una relazione con una collega, Diana Highland, che peraltro ha 20 anni più di lui. Tornando alla sua carriera, la svolta è lì davanti. Lui interpreta il ruolo di un giovane italo-americano problematico nella serie I ragazzi del sabato sera. Quel personaggio, Vinnie Barbarino, lo fa notare dal regista John Badham, che lo vuole come protagonista del film al quale sta lavorando. Siamo nel 77 e il film al quale il regista sta lavorando prevede una parte, quella di Tony Manero. Il titolo del film, avete capito, è La febbre del sabato sera. Sai, io vado al 2001 perché mi carico solo ballando. Non andando in giro a fare casino con gli amici. Però vorrei riuscire a caricarmi così anche in qualche altro modo, capisci questo? Come, per esempio? Non lo so come, non lo so, in un altro modo. Perché vedi, Il ballo non può durare in eterno. È una cosa che ha la vita breve, ecco. E io divento vecchio, sai. Sai, sento che, insomma, sto diventando più grande, mi capisci? Tra un po' non potrò più continuare a provare quello che sto provando adesso. Tutto qui. Il successo del film è globale. L'interpretazione di Travolta rende Tony Manero la figura iconica di quella generazione, il simbolo di una generazione di ragazzi della working class che in quegli anni vivono come un rito il sabato sera in discoteca, una liberazione dalle frustrazioni della vita di tutti i giorni. Insomma, è il periodo della disco music, c'è la colonna sonora dei Bee Gees che cementa l'efficacia di questa storia, e poi c'è la credibilità del personaggio principale. Insomma, Travolta viene nominato agli Oscar e ai Golden Globe. Lui non riesce a vivere completamente quel successo, perché pochi mesi prima dell'uscita del film un cancro al seno ha ucciso la sua compagna Diana Hayland, che muore tra le sue braccia. John ha 23 anni, è dura reagire, e lui lo fa buttandosi nel lavoro, come bisogna fare, e raggiunge il suo secondo successo, perché nel 78 il regista Randall Kleiser gli propone il ruolo di Danny Zuko nella versione cinematografica del musical Grease, quello che John Travolta conosce molto bene, e lui reciterà con una cantante australiana in ascesa, si chiama Olivia Newton-John, e il resto è storia del cinema. 5 nomination al Golden Globe, 25 milioni di copie vendute della colonna sonora. Insomma, Travolta è diventato una star a solo 24 anni. Sandy! Danny? What are you doing here? I thought you were going back to Australia. We had a change of plans. Well, that's cool, baby. I mean, you know how it is, rocking and rolling and whatnot. Danny? Questa è la voce di John Travolta che noi abbiamo sempre sentito doppiata, e lui è candidato di nuovo a un Golden Globe. Insomma, la strada del successo per lui sembra definitiva e irreversibile, però non è così, anzi purtroppo è esattamente il contrario, perché da quel momento per 15 anni la sua carriera sarà condizionata da ruoli rifiutati e anche da ruoli interpretati, errori in entrambi i casi, perché i suoi rifiuti aiutano l'ascesa di altri colleghi, e in questo caso di Richard Gere, perché lui si lascia scappare due ruoli, American Gigolo e ufficiale e gentiluomo, e sarà proprio Gere a usufruire di questo rifiuto, diventando a sua volta una grande star. Poi nell'83 invece accetta la proposta di Stallone di fare il sequel, diciamo, della Febbre del Sabato Sera. Il film Stayin' Alive non ha successo, e poi ci sono altri film, Urban Cowboy, Blowout nell'81, poi Perfect nell'85. Insomma, lui inanella un errore dopo l'altro, sceglie i film sbagliati e rifiuta quelli giusti. Per esempio dice no a un altro lavoro su un film che si chiama Splash, una sirena a Manhattan, e il posto se lo prende Tom Hanks. Quindi, diciamo, in quel momento lui è un po' un remida al contrario. Poi riesce a emergere temporaneamente dal declino nell'89, perché c'è una commedia interpretata da lui e da Christy Halley che si chiama Senti chi parla. Allora, c'è uno che sta verniciando in cima ad una scala. Un altro passa e gli dice: attaccati al pennello che tolgo la scala. Non l'ho capita. E si attacca al pennello, no? Non l'ho capita. Eh sì, è una commedia che in Italia ha avuto molto successo, ma probabilmente più per il fatto che il bambino era doppiato da un gigantesco Paolo Villaggio che non per la commedia in sé. Lui interpreta un tassista con la passione per il volo, si va quasi a pescare dalla vita vera di Travolta. Nell'81 c'è l'incontro con un uomo, Douglas Gotterba, anche lui pilota di aerei. È un incontro chiave, perché Gotterba ne ha parlato solo pochi anni fa, rivelando che questo incontro fu il primo di una lunga serie, perché da qua bisogna usare i se. Pare che con lui Travolta avrebbe avuto una relazione gay per 10 anni, e da qui in avanti, insomma, si apre un capitolo e nel quale tutti parlano di questa presunta omosessualità di John Travolta, e l'argomento ricorre sui giornali di gossip. Comunque, dopo la parentesi di Senti chi parla, con anche due sequel, Travolta torna nell'ombra, ma nella sua vita professionale sta per entrare un regista geniale giovanissimo che gli regalerà una seconda carriera. Sta per arrivare Quentin Tarantino. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di John Travolta, un attore dalla fama globale, con una carriera complessa, intricata, con cadute, rinascite. Lui ha toccato veramente vette altissime e più volte è crollato. È una star di Hollywood, forse il miglior esempio di come quel mondo dorato sia splendente anche o forse solo grazie al lavoro di professionisti dell'immagine, i cosiddetti press agent, capaci di costruire una realtà parallela alla vita vera. Eh sì, perché nella vita vera di Travolta non ci sono solo i successi, il lavoro, i film, ma anche le tragedie e poi gli scandali, perché una delle ipotesi è questa omosessualità nascosta al pubblico. E poi c'è un'adesione trentennale a un'organizzazione molto controversa, la Chiesa di Scientology. E poi c'è, ahimè, un dramma personale, la morte di un figlio, il dramma peggiore che possa capitare a una persona, e dietro a questo dramma c'è qualche altro segreto. John Travolta incontra la Chiesa di Scientology nel 75, quando non è ancora un attore famoso, ne diventa membro quasi subito. Addirittura nel 91 deciderà di far celebrare il suo matrimonio con la collega Kelly Preston da un ministro del culto di Scientology. Il matrimonio non può essere riconosciuto, quindi i due devono risposarsi legalmente qualche mese dopo. Però a parte la vita privata, la svolta a una carriera che sembrava, ahimè, apparentemente destinata a un declino precoce, arriva nel 94 e ha il volto di un regista giovanissimo. Il cognome è italo-americano, è Quentin Tarantino, perché Tarantino sceglie Travolta per il suo film più famoso. Il titolo è Pulp Fiction. John Travolta ormai è lontano dal sex symbol per le teenager degli anni 80 e interpreta questo piccolo criminale appesantito e cocainomane, Vincent Vega. Bene, allora come sono questi hashish qua? Come sono? Che vuoi sapere? Lì l'hashish è legale, sì, no? Sì, è legale, ma non al 100%. Voglio dire, non puoi entrare in un ristorante, rollarti una canna e metterti a spivacchiare. Insomma, ti lasciano fumare a casa tua in certi posti ben precisi. Oh sì, agli hashish bar. Sì, la faccenda è così, ascolta. È legale comprarlo, è legale possederlo. E se sei il proprietario di un hashish bar, è legale venderlo. È legale averlo addosso, ma questo non importa, perché, sentimi bene allora, se vieni fermato da un poliziotto ad Amsterdam, è illegale per lui perquisirti. Insomma, questo diritto i poliziotti ad Amsterdam non ce l'hanno. Amico, ci vado subito, non ci sono santi, cazzo se ci vado. Lo so che ti piacerebbe, bello. Per Travolta il successo di Pulp Fiction e soprattutto le sue doti mostrate nell'interpretare Vincent Vega diventano una vera e propria rinascita. Candidato all'Oscar, al Festival di Cannes, quello di Berlino, Travolta conquista pubblico e critica, torna a essere la gallina delle uova d'oro delle case cinematografiche. Il suo cachet torna sopra i 20 milioni di dollari a film. E per tutto il decennio dei 90 Travolta è al vertice, è sulla scena, ancora con Tarantino in Get Shorty, poi è protagonista di Phenomenon, che è un altro successo al botteghino. Insomma, è di nuovo uno degli attori più richiesti dalle major, passa dalle commedie ai film drammatici, recita con Dustin Hoffman in Mad City, con Nicolas Cage in Face Off, poi c'è un altro successo nel 98, La figlia del generale, e poi è Civil Action con Robert Duvall. Nel 2000 lui, forte di questa ondata di rinnovata popolarità e anche immagino di un conto in banca conseguente, Travolta si getta in un progetto legato alla sua fede religiosa, Battaglia per la Terra, tratto dall'omologo omonimo romanzo di Ron Hubbard, il fondatore di Scientology. Travolta e Scientology intervengono pesantemente sulla sceneggiatura e, insomma, condizionano anche la realizzazione della pellicola. Il film alla fine costa 75 milioni di dollari, ai quali vanno aggiunti 25 milioni di dollari di promozione e marketing. Non è male, però il film incassa meno di 20 milioni e viene considerato uno dei peggiori film della storia del cinema. Ma questo non scalfisce il legame di Travolta con Scientology, che è fortissimo. Lui è uno dei volti più noti, anche se ci sono altri personaggi di primo livello che aderiscono all'organizzazione. La chiesa di Scientology, riconosciuta nel 93 negli Stati Uniti come culto legale, negli anni insomma ha dovuto affrontare scandali, accuse di ex appartenenti che l'hanno descritta come una setta che plagia gli adepti. Ci sono delle accuse, insomma, magari non provate, che hanno determinato grande dibattito. Travolta in molte occasioni ha proprio messo in campo una difesa agguerrita nei confronti di Scientology. Quindi, se quelle voci riflettessero fedelmente Scientology, tu non ne faresti parte? No, assolutamente, come anche Tom Cruise, Kirstie Alley, Nicole Kidman o Priscilla Presley, o qualsiasi altra persona che magari sono stato io a influenzare o a introdurre. Sono tutte persone oneste, per bene, sono persone intelligenti che sanno pensare con le loro teste e prendere decisioni autonome. E mi sembrano strane le accuse che ci vengono mosse, cioè diamo l'impressione di essere obbligati a fare qualcosa. La carriera di Travolta procede al ritmo di un film all'anno, anche di più. Dal 2000 in poi, film d'azione, qualche ruolo drammatico che ne conferma le doti di attore maturo, come nella pellicola del 2004, molto bella, questa ve la consiglio, Una canzone per Bobby Long, un film veramente intenso. Poi Travolta ha una vita privata che i giornali mostrano felice e tranquilla. È sposato con Kelly Preston, ha un figlio maschio, Jet, tanti soldi, la passione per il volo, il successo, ma dietro c'è qualcos'altro. Intanto la malattia del figlio Jet, una malattia che lui tiene nascosta, e il figlio è autistico. Non si capisce perché lui non faccia sapere al mondo di questo suo problema. Probabilmente, insomma, c'è, come dire, questa cortina di perfezione che deve rimanere nelle vite degli attori, almeno per gli stilemi di Hollywood. Però il destino fa emergere tutto nel modo più doloroso, il 2 gennaio del 2009. Abbiamo improvvisamente ricevuto la notizia da un ospedale giù nelle Bahamas che il sedicenne Jet Travolta è morto. Ci è stato detto che è scivolato nella vasca da bagno. Sappiamo anche che ha avuto un attacco, ma non sappiamo se abbia avuto l'attacco e poi sia scivolato o se al contrario l'essere scivolato abbia causato l'attacco. Dunque, il ragazzo Jet soffre di una malattia che, dice John Travolta, è la sindrome di Kawasaki, che è un disturbo di immunodeficienza che può portare a problemi di cuore. Ma in passato si era detto che il ragazzo soffrisse di autismo. Notizie smentite da Travolta. La morte del figlio, a cui Travolta è legatissimo, fa emergere particolari inediti. Ci sono polemiche nella volontà della famiglia di nascondere l'autismo di Jet. Forse c'entra proprio Scientology, che non considera l'autismo come una malattia vera e propria e che condanna l'uso di farmaci che agiscono sulla sfera psichica, farmaci che forse erano stati utilizzati per contenere le crisi epilettiche. Insomma, sotto questa superficie di perfezione, di smoking e tappeti rossi, e c'è la vita vera, con il dolore, con le debolezze umane, e il dolore peggiore che una persona possa sopportare, insomma, lo sappiamo, è proprio questa, la perdita di un figlio. Solo alcuni anni dopo la morte di Jet, Kelly Preston, la madre, ammetterà che lui soffriva di autismo e di crisi epilettiche. Nei mesi successivi a questo dramma, i giornali di gossip cominciano a parlare, a sostenere che Travolta starebbe meditando di lasciare Scientology, rea di avergli appunto impedito di curare liberamente il figlio. Però l'attore non lascerà mai la chiesa di Ron Hubbard. La stampa allora si spinge oltre, arriva a ipotizzare che John sia sotto ricatto, cioè che non possa abbandonare l'organizzazione perché altrimenti verrebbero rivelate al pubblico le prove di relazioni omosessuali, compresa quella con il babysitter del figlio. Insomma, si scatena una vera e propria guerra fatta di dichiarazioni, insomma, che possono distruggere la carriera a chiunque. E lui cade in un periodo di depressione. Ci sono testimoni che raccontano di averlo visto girare all'interno della sua tenuta senza uno scopo, a bordo di un'auto elettrica di notte. Insomma, è un periodo terribile che adesso Travolta racconta così. È stata la cosa peggiore che mi sia mai capitata nella vita. La verità è che non sapevo affatto se ce l'avrei fatta ad uscirne. Non avevo più interesse nella vita. Mi ci è voluto davvero parecchio per riprendermi. Dopo la morte di Jet, non volevo più svegliarmi. Poi la vita continua, Travolta ce la fa a superare questo momento di depressione, torna a recitare, però non ci sono capolavori, ci sono film d'azione, ruoli in produzioni televisive, insomma i tempi di Tony Manero e di Vincent Vega sono molto lontani. Ma tu l'hai mai fatto un massaggio ai piedi? Non venirmi a parlare di massaggi ai piedi perché io sono un maestro di piedi massaggiati. E ne hai fatti molti? Cazzo, ho una tecnica che levati, niente solletico, niente di niente. A un uomo glielo faresti un massaggio ai piedi? Vaffanculo. L'hai fatta a molti? Vaffanculo. Sai, mi sento un po' stanco, mi farebbe bene un massaggino ai piedi. Basta, hai capito? Cominciano a girarmi le palle. E poi all'inizio del 2012 ci sono altri guai che vanno invece nella direzione, diciamo, delle ipotesi sulla doppia vita, perché spuntano accuse imbarazzanti di molestie sessuali avanzate da due massaggiatori. E entrambi rimangono anonimi, ma pretendono un risarcimento di $2 milioni. Poi nel 2012 arriva un terzo uomo, un marinaio cileno, che lo accusa di un approccio sessuale insistente risalente a 3 anni prima. Probabilmente si tratta di banalissimi sciacalli a caccia di soldi, però insomma si va sempre a cadere su questo punto. Forse scopriremo qualcosa leggendo i giornali, ammesso che i giornali siano in grado di dire la verità su qualcosa. Poi comunque ci rimarrà il dubbio che la verità su John Travolta, la verità vera, non si saprà mai. Forse è anche giusto così, perché ogni persona ha diritto, diciamo, al suo angolo nascosto. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare colpi d'ala, che hanno volato in alto, hanno fatto cose che hanno lasciato il segno. Nel caso di John Travolta, i voli verso l'alto e verso il basso sono stati frequenti e alternati. Oggi il John Travolta con magari il parrucchino o il capello disegnato, insomma, ci fa un po' di malinconia, però non è detto. Insomma, la storia di Hollywood è anche piena di colpi d'ala finali clamorosi. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi, a trovarci sui miei, sui nostri social, insomma, se volete, sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Giovanni Savarese, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. Buongiorno.